Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Torniamo a occuparci di stampa 3D in metallo per parlare di una nuova tecnologia che promette un importante balzo in avanti in termini sia di prestazioni che di rapidità di stampa. Parliamo di una tecnologia chiamata binder jetting, che ricorda per molti versi la stampa a getto di inchiostro, ma applicata alla fabbricazione di manufatti 3D in metallo e non solo, per la verità. Come abbiamo visto qualche settimana fa, infatti, con Barbara Previtali del Politecnico di Milano, la stampa 3D metallica ha fatto molti passi avanti negli ultimi anni in termini sia di qualità dei manufatti che di automazione delle procedure necessarie a incorporare la stampa 3D all'interno di un processo produttivo, mentre proprio la produttività e quindi la rapidità di stampa rimane tutt'oggi un fattore critico, ma forse ancora per poco. Ne parliamo con Massimiliano Annoni, professore associato presso il Dipartimento di Meccanica, sempre del Politecnico di Milano, dove insegna tecnologia meccanica e Advanced Manufacturing Processing. Buonasera Annoni. Buonasera Melis, buonasera a tutti. Allora, ci spieghi brevemente come funziona questa tecnologia, questo paradigma di stampa chiamato binder jetting. Allora, il binder jetting è corretto pensarlo come una stampa a getto d'inchiostro, in cui ad essere stampato non è in realtà l'inchiostro, ma sono goccioline micrometriche di polimero, che può essere appunto pensato come una colla che tiene unite delle particelle metalliche. Le particelle si trovano già disposte su quello che viene chiamato letto di polvere, che può avere uno strato di alcune decine di micron, e la testa di stampa, passando sopra questa polvere e spruzzando queste goccioline, in sostanza va a tenere unite queste particelle che formano un layer, uno strato. Dopodiché la macchina si occupa di depositare un altro layer dello stesso spessore precedente, e la testina di stampa ripasserà anche sopra questo nuovo layer di particelle, che possono essere metalliche o ceramiche, andando quindi ad incollare di fatto piccoli gruppi di queste particelle a quanto è stato prodotto al layer precedente. Quindi, procedendo in questo modo, layer by layer, strato dopo strato, si forma, come sappiamo, tipico questo processo della stampa 3D. Però la cosa in questo caso non finisce qui, perché l'oggetto che si ottiene è un oggetto di particelle di metallo incollate fra loro da una sorta di colla di polimero. E quindi cosa succede? Infatti, l'oggetto così ottenuto infatti si chiama verde, con un termine che deriva dalla fonderia. È un oggetto che non ha affatto le proprietà metalliche finali. E infatti i passaggi successivi servono per rimuovere il binder, questo polimero, questa colla che è tenuta insieme alle particelle, per poi posizionare il pezzo in un forno ad elevata temperatura e procedere a quella che si chiama sinterizzazione, cioè le particelle metalliche, se parliamo di metallo, verranno unite e densificate fino a togliere la porosità residua lasciata dal binder, che evapora e che quindi deve essere tolto. In forno le particelle però si uniscono e riempiono questi vuoti fino a ottenere un pezzo completamente denso o quasi completamente denso. Quali sono i vantaggi? Uno, io un po' l'ho anticipato, che è la rapidità. Da dove arriva questa rapidità, insomma? Allora, la rapidità in parte proviene dalla lunga esperienza che alcune aziende del settore hanno sulla stampa. Ci sono dei grossi player mondiali come HP, come Desktop Metal. Se parliamo di HP è chiara la loro esperienza nella stampa, no? Stampa a getto, certo, di altro genere. Quindi la tecnologia lì è sufficientemente veloce da permettere il fatto di spruzzare migliaia, decine di migliaia di goccioline nell'unità di tempo, e questo permette appunto di essere molto veloci nel coprire tutta la superficie di un letto di polvere. Questa è una cosa, ma la velocità proviene anche dal fatto che io posso stampare tanti oggetti tutti insieme. Quindi a parità di volume di polvere che io ho a disposizione nella mia macchina, se paragono il binder jetting al laser, qui posso mettere molti più pezzi, perché non ho bisogno delle strutture di supporto del pezzo stesso, che invece sono essenziali per il laser. Ecco, quando quindi dice tanti oggetti tutti insieme, non intende solo uno di fianco all'altro, ma addirittura uno sopra l'altro, se ho ben capito. Ma uno sopra l'altro, esatto. Ovviamente poi devono essere distanziati da alcuni layer di polvere, però di fatto sono stampati uno sopra l'altro. Quindi ho un impiego complessivo del volume di polvere molto efficiente. Quindi a parità di tempo che io impiego per coprire tutto questo volume, qui ottengo molti più pezzi e da questo deriva una rapidità di stampa elevata per il binder jetting. E deriva anche economicità da questo fatto, perché sconto molto bene la polvere che ho a disposizione. E anche la macchina, che comunque ha un costo di investimento iniziale. Senta, sì. Lei ha già accennato al fatto che questo approccio si può utilizzare sia per produrre oggetti solidi in metallo, ma anche in ceramica. Sì, esatto. Tra l'altro, per certi versi, è ancora più interessante il fatto di poter fare oggetti ceramici, perché la ceramica è un materiale molto duro, che quindi è difficilmente trattabile con tecnologie di tipo sottrattivo. Certo. Per cui fare un pezzo, soprattutto di geometria complicata come è concesso dall'additive, quindi anche dal binder jetting, senza poi doverlo rilavorare o rilavorarlo soltanto in parte, è un grandissimo vantaggio, soprattutto su materiali difficili da lavorare come la ceramica. Senta, quanto tempo per vedere questi oggetti disponibili sul mercato e quali i settori maggiormente interessati? Io credo che nel 2021 sicuramente vedremo sul mercato queste macchine molto produttive. Ne esistono già in realtà alcune, quindi si può già trovare le binder jetting sul mercato, però quello che si sta aspettando sono queste macchine ad elevata produttività che dovrebbero arrivare l'anno prossimo. I settori verso cui stanno puntando questi produttori sono sicuramente, in primo luogo il settore è l'automotive, dove è sì interessante la possibilità di produrre oggetti complessi, ma serve anche elevata produttività. Certo. E qui mi sembra che il binder jetting stia fornendo degli ottimi presupposti, ottime promesse che speriamo siano mantenute. Grazie Annoni. Grazie a voi. Va bene, cari ascoltatori, abbiamo concluso anche per questa sera. Appuntamento a domani.